1, 2, 1, 2, 3. Mi sento bene solo se mi faccio male. Bene in fondo che cos'è? Ognuno ne ha per sé. Rovescia e contrariata a contraddizioni di donna arrivata e libera. Sono mercoledì sulle ormai consuete note di acustica stonata dei Prozac Più si apre un nuovo appuntamento con acustiche stonate, storie di donne che con la loro arte e la loro vita hanno lasciato un segno stonato fuori dal coro e rivoluzionario in ogni epoca. Oggi racconteremo la storia di una delle Riot Girl californiane più discussa, vedova di Kurt Cobain, cantante urlatrice e solista di alterno talento, Courtney Love è tra i personaggi più amati e odiati della scena attuale, ma oltre alle provocazioni, alle intemperanze e alle disavventure legali, di lei resterà, quantomeno, la testimonianza di Pretty on the Inside. Slut, kiss, girls, won't you promise her? Smack, is she pretty? On the inside, is she pretty? From the back! Delle Riot Girl a inizio anni 90 fu prima di tutto un movimento sociopolitico, poi anche musicale. Proprio come i Lippi di 25 anni prima, entrambi tra l'altro di San Francisco, la musica Riot fu il grunge come quella hippie era stato l'acid rock psichedelico. Il punto è che, mentre le questioni sociali degli hippie erano incentrate su questioni utopiche e speranzose del futuro, e droghe, potere dei fiori, sesso libero, pacifismo ne erano il contorno, quello delle Riot Girl erano sì questioni altrettanto sintomatologicamente sociali, ma di una società che ormai, essendo inequivocabilmente grigiore, alienazione e nichilismo, non poteva che sterilizzare a priori ogni barlume di utopismo revival. Per quanto riguarda le All, basterebbe dire che furono tra le fondatrici del movimento. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. Look at my face. Courtney Love è una pessima compositrice e ancora di più una pessima chitarrista. Courtney Love non fa arte, non fa rock, in quanto questo possa dirsi arte. Il suo è uno sfogo che dal personale, dall'alienazione della persona, passa al propagandistico e all'alienazione, se non di una generazione, almeno di un certo contesto storico e geografico peculiare. In questo rientra poi anche il discorso sui sessi e sul rapporto uomo-donna, in un continuo altalenare dal piano sociologico, storico, a quello antropologico, naturale. Gruppi come le All sono più importanti a livello storico-sociale che a livello musicale. Restando in questo, possono dirsi tra le prime interpreti del grunge al femminile e, sebbene del tutto inferiori alle Babies in Toyland, furono una cinghia di connessione tra le prime hard rocker al femminile del post new wave e il diffondersi di piccole band riot girl degli anni 90. Thank you. Nessuna canzone delle Hole rimarrà nella storia. Quelle del 1991 perché non sono canzoni ma conati di vomito irrefrenabili. Quelle del 1994 perché sono tra la canzone e il vomito, senza essere incisive né nell'una né nell'altro. Quelle del 1998 perché sono canzoni stupide e insignificanti. Se è vero che nella storia sono rimaste molte canzoni stupide e insignificanti, anzi forse le più sono tali, è anche vero da una parte che ci riferiamo alla storia non delle vendite ma dell'importanza artistica. Il meglio le Hall lo danno quando vomitano. E qui sta il loro senso, non nel fare musica ma nell'esprimere il nichilismo brutale e angosciato di una fetta di mondo piena di giovanissime ragazze senza soldi, senza futuro, senza sentimenti veri, senza cultura, senza voglia di vivere. Quella fetta di mondo geograficamente e storicamente sarà rappresentata dalla West Coast americana e segnatamente dalla zona di San Francisco Seattle a inizio anni 90, idealmente da tutte le sacche di depressione giovanile e soprattutto femminile disperse per il mondo nell'era post-ideologica e post-industriale che dir si voglia. On the Inside è davvero un disco ostico ed estremo. Esasperazione, noia, schifo, disarmonia e distonia abbrutite e appesantite sono le sue coordinate. Cotrain Love, dopo un'adolescenza sconclusionata, comunque incline all'esibizionismo, fa la spogliarellista in Alaska, infatti, e generalmente dedita al sogno di diventare una star. Fa anche una comparsa nel film Sid and Nancy e Straight to Hell tra il 1986 e il 1987. Fu prima a San Francisco e poi a Minneapolis, al seguito di Kate Belland nel periodo Proto Babies in Toyland. Così dette una sterzata decisiva alla sua vita, che concentrò su quel punk rock da lei sempre osannato. Lasciatasi con Kate Belland, una delle separazioni più spiacevoli della storia del rock, anche se dovuta forse al fatto che entrambe cantavano, suonavano la chitarra ed erano leader nate, a Los Angeles nel 1989 fondò le Hall e nel medesimo periodo è la convivenza col 24enne Kurt Cobain. I due poi si sposeranno nel 92. Cry no one can hear in hell, the blinded eyes to see chaos, bring the pitiful to me, even though I'm wide awake, I will, and black as night, and I you. It's cold in here, there's no one left, and I wait for you, and nothing stops it happening, and I knew I'd cherish all my misery alone, and I they pay to cry and cry for you. Ghosts that haunt you with the sorrow. I cried 'cause you were doomed. Pray into the wound that swallows all that's cold and cruel. Can you see the tree? They're cold and white. Praying to the northern star, I'm afraid You won't lead you anywhere, he's so cold. Raining on the world tonight, on the angels kneeling to the northern lights, and I pray, begging to the northern star, I'm afraid. It won't lead you anywhere, he's so cold. He will rule the world tonight, all the angels kneeling to the northern lights, kneeling to the frozen lights. Feel their hearts, they're cold as ice. Complessivamente le Hall possono dirsi la versione pop delle Babies in Toyland, dai ringhi della Love ai tribalismi della batteria, alle scordature delle chitarre sistematicamente ignoranti di riff, alle claustrofobie del basso, su di una struttura musicale sostanzialmente lenta e gracile. Si innalza una voce bestiale che è la chiave di volta, la dittatrice, il senso del tutto. Pretty on the Inside è poi il loro miglior album, proprio perché è quello più vicino al modello delle Babies in Toyland. Nel 1994, una settimana dopo il suicidio di Cobain, esce Live Through This. Le Hall sono un altro gruppo. Prima la musica delle Hall era cacofonica, ora è grunge pop. Courtney Love ha 30 anni, è madre, continua a essere tossicodipendente e vuole provare a scrivere canzoni. Più di tutto però tiene nell'armadio il fantasma a lei più caro, lo Star System. Forse riuscirà solo su quest'ultimo punto. Yeah. Celebrity Skin, uscito nel 1998, completa l'approdo alla musica di massa, raggiungendo il numero 9 nelle chart di Billboard. Celebrity Skin e Malibu furono i singoli. Su quest'ultimo la penna di Billy Corgan, leader degli Smashing Pumpkins, si dimostra di notevole insipidità. La stessa insipidità e la stessa penna che affliggono gran parte dei brani. Sciolte le All nel 2002, che avevano seccato ogni linfa, la Love, forse in attesa di un ingaggio cinematografico o televisivo importante, proprio come fa Madonna da anni e anni, nel 2004 ha fatto uscire American Sweetheart, riuscendo persino a far rimpiangere di non essersi rifatta alla musica di Madonna. Nel frattempo continua a riempire le cronache con le sue disavventure legali, tra processi per droga e arresti per aggressioni e intemperanze varie. Troppo acustiche stonate, termina qui. Noi ci risentiamo il prossimo mercoledì con nuove storie di donne che con la loro arte e la loro vita hanno lasciato un segno stonato fuori dal coro e rivoluzionario in ogni epoca.